metri d'altezza, una volta va sotto 8 metri, per cui tutto il diametro della sezione del tubo è tutto rapportato, per cui l'istinta di vento non è che ne abbia più di tanto, è come mettere un'antenna di macchina, di quelle degli istinti di macchina, un po' più grossa. Dove sta fissando? Allora, se tu pensi che Santa Maria di giusto. Così che lui non è né a Santa Maria di Pisa né a Sant'Orsola, ma è subito dietro, dalla parte, diciamo così, dietro. E niente, però da qui ci saranno circa 600 metri, non di più. Ma tu sei vicino a dove c'è Galvino, da quella parte lì sei tu? Galvino. Passero, da quella parte lì o dall'altra parte opposta? Allora io passo la mia parte atterrata e sono di fronte. Quindi, teoricamente lui ti dovrebbe dare più problemi degli altri? Beh, se si mette a fare lo stupido, sì. Tutto, quindi tu c'era verso le luci gialle, diciamo, verso le luci gialle tu rimani? Attivo. No, io pensavo abitassi dall'altra parte, tu, esattamente dall'altra parte. Ma ce l'ho di fronte. La solare la conosci? Sì, sì, ce l'avevamo lì a scuola, andava lì. Alla fine, via solare, per girare alla bretella, tu sbatti la faccia al muro e sei arrivato da me. Ma lì ce ne sono un paio pure di antenne, una a fianco all'altra. Oh, io dico una cosa, se attacca che tu che vai a fianco a Luca, Luca non ascolta più a nessuno. Si attacca quello che è a fianco a Luca. Ma manicomio. Luca. Tu. Io mi aspetto che sei circondato, me. Sei due, uno dalla destra e uno dalla sinistra. Io mi ascolti ancora? Cosa? E mi ascolti, vi stanno comprendo di brutto a voi. Sì. So chi sia, fischi furti, c'è gente che sta provando, ma giumai vi copre. No, io ti ascolto bene. Stavo dicendo Luca Manicomio, ce n'è una attaccata a 5 metri di distanza di antenna. Ma quello non sta più entrando. Ma dico, se dovessi attaccare quello, non sento più a nessuno, Luca. Ma quello non sta più entrando. E perché sì? Qualcuno sta provando grosse potenze qua vicino, che è tutto butto. A me mi senti? Io sì, a te t'ascolto, però non so dire talmente forte, perché se si sente su tutti i canali lo sento. È un fischio, qualcuno sta facendo prove, forse qualche collegamento a lunga distanza. Cosa, Lu? Fischio, lo senti? No, io. Com'è? Chi è che è saltato di poco? Di cosa stai parlando? Ma giù mai ti copre, Luca. Tu stai usando il polo? Ecco, adesso non lo so, un'antenna. Si sente. Allora, tu non stai usando il polo, se riuscivo a trovarlo. È spostato. Scusate, di 10 km, allora non ce l'ho fatto trovarlo. Ma comunque ho capito chi è, sento la voce. È il tuo vicino. Capa, ma sta uscendo un bel forza. Sono su altre bande, però è fortissimo. Vabbè, ma tu già caricato hai. Capa. Ehi, allora mi ha mandato una galluccia, ma è venuta di via. No, ho mandato presto, erano l'una meno 10, dai, quello da lì. No, prima erano l'una meno 10, forse sarà state l'una meno 20, ma c'è già una mezza. Non è troppo presto così. Ah, io mangio quando va giù, normalmente mangio sempre a luna, oggi ho mangiato un po' prima perché siamo usciti prima, usciamo prima il sabato. Vabbè, ma i bambini c'è la scuola, no? Sempre a quell'ora escono. No, una solo è la scuola, l'altra il sabato non ci va, la piccolina no, ma siamo la grande, l'una e mezza esce. Vabbè, non potevo trasportare, così mangiavate con la bambina. Sì, una volta volte c'è il fame, ma mi subito, fa due volte. Sei Luca. Cappagappa. Adesso è di buono questo passaggio. Ah, cosa non attende, capito? Poco fa di cupo e masso. Cappagappa, e comunque, oggi la ghiandolina vuol dire che mangia la sola, poverina. Vabbè. No, stiamo facendo un passaggio dall'1 al 40, ce l'ho sotto. Nel canale 2 arriva a bomba. Lavorando su altre bande, però, che le presenze. Già lo so che lui lavora ad altre bande. Lui la deve assegnare arrivi, no? Che figurati. Cappagappa, a te. Ti ammazza a lui, che sai di tutti. Ora. Andiamo da per Silvo. Un attimo. 2 secondi, eh. Andiamo un po'. Andiamo da per Silvo, no? Per i chiacchieri. Era di comprendi. Ma volava da mangiare, se prendete quella. Cioè, stavi parlando tu e c'era l'altro sotto che stava parlando lui dicendo di sbattere, parlando di sbattere, detto, dice quando siamo troppo vicini, chissà con chi sta parlando, non lo so. È perché sicuramente quando parla il suo corrispondente, sono brutti, perché quando parli tu giustamente non lo senti perché c'è la portata schiacciata e non lo senti. Però quando parli tu, il tuo corrispondente sente soltanto lo splatter, capito? E eventualmente stiamo parlando di quello lì con il corrispondente, dicendo che tu magari sei vicino, e giustamente quando ti capita che lui sta ascoltando il corrispondente, sente anche lo splatter tuo, perché è una cosa che si incanalizza. Figurati come escono questi apparati, se lo facevi con un apparato FM o una cosa del genere ti arrivavi subito, qua c'è molta più tolleranza per le spurie. Capito Mario? Sì, da me c'è molta più tolleranza. Diciamo che ci sorvolano un po' sopra, ma non è che ci sia molta tolleranza, perché il giorno che sarà anche qualcuno con le scatole girate, tutti. No, vabbè, c'è da dire una cosa, che qua stiamo lavorando in AM, quindi lavorano in FM, le stazioni radio lavorano in FM, ma se non avevi la seconda armonica chiamata di 70 decibel, sai che ti bloccava nel dutto, qua invece stiamo parlando molto, ma molto di meno, di attenuazione. Perché così giustamente, questa qui è una banda cittadina, solamente che, diciamo che per regola, e per legge il microfono amplificato non si possono utilizzare. Una volta che tu usi i microfoni amplificati o fai determinate cose sull'apparato in modo da uscire più amplificato, a quel punto lì se vogliono vengono e ci si facciamo tutto quanto, capito? C'hanno un po' di tolleranza giustamente, perché loro dicono se non ti hanno rompi le uova nel paniere tutto va bene, se non ti rompi le uova nel paniere tutto va male, perché ti si gira tutto contro, tutto qua. Sì, no, ma non sto parlando di io personalmente, io parlo in cosa costruttiva dell'apparato, cioè le armoniche e le spurie sono molto più tollerate che in un apparato trasmettitore FM, dico, di una stazione radio. Ancora mi sto ascoltando, sta lampeggiando la batteria qua. Io ti ascolto sempre allo stesso modo, forte e chiaro. Capito, sto parlando di in sede di omologazione dell'apparato, non parlo io personalmente, quando costruiscono l'apparato, lo danno il prototipo, questi omologati hanno addirittura spurie ancora molto più alte di un apparato FM. Va bene, ben pochi. Adesso ti sei stato parlato sopra, Mario? Perché si è permesso di parlarmi sopra? Non capisco, eravate in due. Avanti, che si è permesso di contestarmi. Io non sento nessuno. Ah, io stavo cantando. E tu che stavi cantando? Lampo? Ma che sta andato Simone? Ma Simone non c'è a quest'ora. Figa i calloni, di mai, Simone pure, detto di Simone. Ma Simone sì. Positivo, tu sei Simone? Simone di Cassetto. No, non sei Simone. A Pattango. Cavolo, non si può fare la domandetta, ma al pallino si fa Pattango, i scalloni si. C'è la macchina veloce, è poco di scundami. La c'hai, la macchina con le ali, cioè la tornata con le ali, c'hai. L'elicottero c'ho io. Ma gappa. Vedi, vai, se no ci siamo nella camera di mezzo, dai. Ma gappa, hai capito, Roberto? Gli apparati omologati che escono, diciamo che su un migliaio che ce ne sono in giro, se ce ne sono 10 originali dalla fabbrica è troppo. Non è proprio così, dai. Io quello che ho io sono più di pacca, non è mai stato toccato, c'è ancora il sigillo della garanzia. Cosa c'è il sigillo della garanzia? sia, perché c'è buona volta, ma allora, mi sembra che anche tu sia ancora con le tue in bocca, è vero. Tutti gli apparecchi li tolgono i filtri per aumentarli sempre poco poco di marce, per appendere le C in modo che escano meglio, sono tutti apparecchi. C'è giusto qualche uno che non l'ha mai toccato, ma ce n'è qualche uno, non è che ce ne siano molti, perché di solito tutti i CB. Vogliono prendere i cigni che schifo, allora subito un ranno, apri le leggi, togli il filtrino e te lo bagattato. Così che se tu vai a guardare quello lì, io non ho che ti voglio dire che ha preso in baracchina, però quando succederà qualcosa che non lo vuoi aprire te ne accorgi. Ti stavo parlando, Mario. Lasciali traslare, intanto noi siamo sempre qui nel 10. Frequenza 27.75. 27.075, ossia che capiscano male. Canale 10, in compagnia di Mario Marcel, Roberto Quadrato, Luca Manicomio. Chi vuole ascoltare, ascolti, se no si porterà a farsi su. Appare positivo, si conferma. Lo prendi, Luca. Parla, bene, vediamo un po' se ti ascolto di nuovo. Va, vai, parla. Guarda, 1, 2, 3, prova. Adesso no. Anzi. Quanto non è qua? Canale 10, 27.075. Avanti. Esatto, ti sei già. No, mi è venuto un crampo. Sono in mezzo a due fuochi, vado un segnale a bomba sotto e poi voi che ti ascolto, appena, allora, riuscite a superarli di poco. Come sai, segnali bassi, come è possibile? Bassi, i segnali nostri sono forti, però ne ho altrettanto sotto io. Sotto in che senso? La gente sta operando in altre bande, che arrivano ancora vicino a me. In qualche bande? Ma dove è la materiale? La cappa. Non è il problema della differenza. Problema? Magari deve ballare in cammino. Ecco già, problema? Questo è il problema di chi è vicino. Io purtroppo non ci posso fare niente. Però me ne ha detto perché sto sgridando la mamma che mi ha lasciato le porte aperte di nuovo. Ma lei chiude, lui viene, ma le apre a posto. Mi fa sentire il televisore che si è ascoltato con la squadra armata di Emanuela a tutto volume. E qua come a me. Io stanotte invece mi volevo guardare un programma sul tardi, perché ero un bel stanco e dovevo lavorare, però ho detto, mi guardo un pezzettino di programma così. E invece come ho toccato col cuscino la testa, buon fulminato l'uomo. E mi sono svegliato alle 4 della mattina che avevo là, il televisore che stava ballando da solo. Musica su quel volume e quella di sotto stamattina mi fa a te mimi e rimane con un capelluccio. Succede Mario, quando si stacca come dico, come succede normalmente? Ah, meglio che l'intenzione, siccome io mi accendo il televisore, no, perché ho fatto la luce su fusia e mi spoglio e mi metto nel letto. Come ho toccato il cuscino, ma a quel tempo di spegnere il televisore, mi si deve non vedo, ma tu sacco imbattato. È stato anche la strada, Oh, adesso c'è anche una portante oltre con la prima cosa di prima. Dove c'era? Sta entrando una portante, muta, non so chi sia. Guardi, io qui non sento niente. Tutto tace, non sento il blatter. E lo squadro si apre solamente quando modulate voi. Non sento manco il cuscino del QRM, nulla, niente. Io c'ho il filtro per cui non si sente nulla. Ma il filtro ti toglie molte volte, io non lo metto più il filtro, yeah. Perché quando sono segnali con i bassi, Santiago 1-2, te li attenua troppo, ti fa perdere un pochettino di modulazione. Vabbè, ma non ti fa sentire qua regola, quando sei in cuffia ti dà fastidio. Ma perché in cuffia stai ascoltando? Io ho sempre usato in cuffia a casa, non lo so che sono alimentato. Vabbè, di notte sì, ma di giorno. Quello lì anche di giorno, allora ti riposo, non vuole sentire nulla, manco una mosca che ruota. Non è meglio che si può questa contro la alla Neuro, visto? Mi sono rotto lo scatolo di fare anche a San Manuela, che a me gli piace la musica, ascolta la musica, canta, fa, gli piace molto cantare. E sto sempre dicendo lì cosa, ma a un certo punto lui mi dice, no, no, no, non possiamo vivere come vogliamo qua, non possiamo cantare come vogliamo. E poi Emanuele, cosa vuoi fare? Quando c'è gente del genere che intollerà. Ma io una cosa già. Questo è sposato. È sposato, c'è anche un figlio. Sta pure il figlio, guarda, piccolino o grande? All'età di Marco. Quindi è possibile che non faccia nessun rumore? Io non li sento mai. La sento solo lui la notte di rossa come un porco. Un porco russano, l'hai mai sentito? Mi sembra che lo registro e glielo fai sentire. Lui mi chiama che sia un tubo. Quindi si scaricano la finestra. Però no, io se poi vissuto la sento vivere, Roberto. Perché sono cose naturali, non le provochiamo noi, le bambini sono piccoli, non mi fa più giocare, non è che non mi fa le messe che pizza. Giusto, giusto, ma quanti anni ha? Una persona giovane o grande di età questa? Ah, guarda, sono una foto qua, non è neanche un ragazzino di tu, dico. Ciao, lo dico. Io davvero, è la sua celebre perché è un po' pesantissimo. Non è buona giornata. Ah, è da quando è piccola Manuela che piangeva di notte che si metteva la luce, capito? Sì, cosa gli potevo fare a mamma da piccola? No. Infatti qui era, capito, vigliato, che trovava che fa, diceva, io dirci una cosa, un giorno glielo detto pure i garroni, non li dico. Se una cosa madurina, ma lì ci faccia, ma faccia a me l'usare, ma una pizzina, io le dovevo avvisare a chi? Sì. Sì. Ma quale c'è detto? No, Marco non fa niente. Sto chiamando per le parti, no? E non mi risponde, non sei qua, no? No, negativo, negativo, però no, se non mi all'ascolto. Marco, sto chiamando, è tutte le parti, no? Non mi risponde. Cappa, cappa, e chi c'è qua? Tu solo ci, tu e te. No, c'è Roberto, c'è Mario Lanzer, c'è Luca. Ascolti, buona carica, buon tutto, ce la riascoltiamo. Ciao. Ciao Tino, ciao. Scusate, sono entrato così, pensavo c'era solo Gianni. Ciao a tutti comunque, sto sentendo male. Riprendi Roberto, allora riprendi. Ciao Tino, buona carica, ciao anche a te caso, me la mattendi ancora. Mattendi? Allora, per dire a Serrario. Se ti ammatto così poco, con la sala, allora questa estate quando inizia a lavorare manda la terata. Abbiamo comprato una tirapugni. No, no, li sentivo, allora li sentivo, però sentivo anche a te, sono un piccolino però che è presente. Figurati, un quello piccolino, vedremo chi si manno allora. Erano soglia di 10 metri, figurati. Vabbè, io non sento niente, anche se mi sposto di... Ma non vado sul canale 5 e tu stai parlando, non ti sento io. Quindi non me ne accorgo quando ci sei, capito? Non me ne accorgo, se no sto facendo le prove, infatti sto parlando un amplificatore con un'antenna, se non sento Marco per fare le prove. Va bene, proseguite allora, rimango in... In quel X faccio qualche altra spatolata, ve lo so, lo trovo. Ci sentiamo più tardi. Riprendi, Marco. D'accordo. Spatolate. Niente. Buon quel X. Così, vabbè, purtroppo, gli sbatte sono come lui, o come scusi, come preferisci. Parlate di beni. Confermo. È così, Sì, caro Gianni, io... Guarda, c'è una cordicella che uso pochissimo, che c'è giù alla barca. Io sono sicuro che se gli faccio un nodo e tu glielo metti al collo, con la lima la rompe di certo. Ma questa è una brilla mamma, ce l'ha per mamma, mi dicevo, ma così siamo sicuri che non sta più. No, ma basta che si deve dare la cosa, se non la prendiamo dal lato. E sta tranquillo, io devo arrivare giù, se non devo rimanere sopra perché andavo a io ma andiamo a mangiare, scusa Gianni, tu ci hai mangiato? Io sì. Perché tu sei veloce come me, dici che sono troppo veloce io, Mario. Sì, ma io ho mangiato una pasta del carciofo. La fettina non l'ho voluto. Mi sono mangiato un pezzo di ricotta musica e un arancio, basta. E mia moglie, amica che ho fatto la fettina, no, non l'ho voluto, no, cara. Troppo un gaggio, No, vabbè, che col tipo di lavoro che fai tu, ogni tanto una merendina, un coso, un pezzo di riso, un pezzo dell'altro. Ma che credere, vabbè. Io non le posso mangiare queste cose, quindi non posso, devo cancellare, io sono diabetico, quindi non posso mangiare dolci, non posso mangiare caramelle, cioccolati, se no adesso ce ne contene lui. Sì, ma salumi già ne puoi mangiare, in salumeria ho visto che avete una bella salumeria assortita. Ora i salumi li posso mangiare, non più di tanto, perché non posso mangiare grassi. E quindi l'unico salume che posso mangiare è il prosciutto, però ho tolto la... tolto il grasso, il prosciutto crudo. Diciamo così la specca. Sì, la specca è prosciutto crudo affumicato, ma l'intenzione è che non c'abbia il grasso, Mario. Il grasso devo togliere. E ti ha parlato, ma lo specchio non è niente di grasso, va. Ce n'è una cucciolina leggera, leggera. È vero, non è come il prosciutto crudo, che ce n'è due litta. Beh, questo è vero, ce n'è molto meno, sì. E comunque, come sono detto, quella ricotta musica di pigna è una favola, Mario, ma l'ho provata là. Ma perché non lo so manco, ce ne ha Cristian, io ogni tanto la compro la ricotta lì da Cristian, compro sia quella pesca che quella Murcia. Quella Murcia, l'ultima volta che l'ho presa, era un tantino fresca, l'ho spermata sul pane, tipo formaggino, no? Era buonissima. Quella di pinna è la migliore. Tu vai alla coppia con la Lucia Chiarini, quella ce l'ha, e gli chiedi, la ricotta musica di pinna, dopo mi dà la risposta, è molto delicata, non è salata per nulla, affumicata, appunto giusto. Buonissimo, ho mangiato due fettine di quella mia e poi un arancio e sono d'accusso. No, non ho voglia di mangiare carne oggi. Ah, voi due ce l'avete? Due? No, ho detto voi, giù dove sei tu, ce l'avete? Voi sì, sì. Allora, la prova è quella, così io non vado da nessuna parte. Tu me ne tagli un quarto di forma, me la pesi, mi metti lo scontrino, me la... e quando stai rientrando me la passi. O ti vengo a concludere, al semaforo è uguale. Non c'è problema, tu devi soldi e così assaggio anche. Così vediamo se è vero quello che mi stai dicendo. Buona, ma... Vabbè, la stasera se c'è in coso, se guardano se c'è in vendita, che non hanno finita, già te la faccio avere. Non c'è nessun problema, capito? Molto buona, molto, molto. È cremosa, bella. Proprio non è di quella salata, capito? A me salata non mi piace, ma così è buona. Io non lo so perché tu capisci che io quando vado lì da Cristian non c'è etichetta, non c'è niente, capito? Perché lui la piglia dalla carta, la mette nel piatto, la mette in vetrina. Però non c'è scritto di chi è, di chi non è, e che se dicendo io ho pigliato questa qui, la settimana scorsa vi ho pigliato un quarto di forma. Niente, l'ho portata a casa, gli ho pulito il pezzettino che ha affumicato, che è leggermente nero, non gli ho tolto il coso, e guarda, la spalmavo sul pane tipo formaggino, era buonissima, non era né salata né niente. Però ti ripeto, non so se era di quella lì, perché non me l'ho mai chiesto, però io ogni tanto un pezzo me la piglio, perché mio figlio non ne mangia molto, ma io la mangio, perché a me mangiare salame, prosciutto, mortadello, pancetta, come fa lui, no, io non ne mangio molto, capito? A me mi piace più pigliarmi una peretta di quelle fresche, me la taglio a pezzi, oppure mi piglio la mozzarella e mi metto due strisce di pomodoro, una fetta di mozzarella in mezzo al panino e mangio così molte volte, capito? staccati, stati io, brufoli non ne ho, non ho niente, invece mio figlio è tutto pieno di brufoli perché gli piace molto mangiare salami, mortadella, roba così, capito? Io invece non ne mangio, non c'ho mai con brufoli, non c'ho nulla. Le calorie sono quelle, le calorie che provocano brufoli, cose rare. Ma a me la salsiccia già mi piace, quella di Murru, la salsiccia di Murru, quella fumicata è buonissima lo stesso. Quella già la compro anche io, quella la compro anche io, però quando vado a nord in grosso me la compro lì, però sai perché? Perché tu quando vai in negozio non le tocchi, capito? Non le tocchi perché o è sotto vuoto speso, sotto vuoto, oppure è nel banco e non te la fanno toccare come. Siccome io possibilmente guardo quando gli arriva molte volte, no? E la tocco, quella che rimane più fresca, un po' più morbida, io piglio sempre quella lì. Che non sia troppo stagionata, perché se è troppo stagionata rimane un po' secca e siccome i birilli se ne sono andati tutti a passeggio, allora bisogna che l'uomo che non devo lavorare troppo, capito? Ma io la cerco di media stagionatura, me la fanno toccare, quando gli occhi devo dire con forza toccare, sì, me la via. Ma la tocco e se mi piace me la faccio dare, non c'è problema. Ma qua parte in un giorno, una salsiccia, c'è un risultato in parte una vita. Guarda, qui c'è il mio figlio che è vera, mi fa girotta. Però io glielo dico sempre, non ne mangiare molto perché giustamente ti fa male. Se tu guardi il coraggio di mio figlio è tutto pieno di bollicine, tutto pieno di brufoli. Mi faccio lo stesso, perché sta mangiando troppi staccati secondo me. E niente, io invece è un pomodoro spaccato tagliato a fette, no? Una mozzarella, oppure se non mi va la mozzarella mi piglio la peretta, il cosiddetto caciocavallo, e niente, mi taglio la fettina, la metto in mezzo e mangio così. Poi io sto fatti male la cultura. Io mangio già più sana la cosa così, che i sacchetti che c'erano tutti i conservanti, tutto quanto. Marco si è dormito. Non sono dormito, sto ascoltando. E lo so, nessuno la mangia. Ogni volta da giorno, però sei dormito, non ti dici dove va. Sì, la gorgonzola mi piace una scarabona, però non mi piace la... No, quella gin, quella della Gemmissi, quella è la più buona di tutte le altre, è così. Quella gin è troppo buona. E anche il carnevato di cattiva. Ho provato tanti tipi, però l'unica buona è quella con la noce, a me, quella che fa la pubblicità, è quella lì, le altre è così. La carnevato di forse è la migliore che c'è, il migliore della gin. Quando la compro la compro solo quella là e basta. Poi ne ho provato altre di prezzo, ma non lo so. La carnevato che stai dicendo tu non mi ricordo di averla presa. Ecco, è molto buona. E comunque, se ci sei meglio di gusti le cose, quindi la sa come, no? Te la fa assaggiare, magari la come, se assaggia che fa quando lo un pezzettino di pane e via. No, tutto quello che ti ho detto io, che ci sei meglio, tu cominci a assaggiare, alla fine ti ha fatto il pranzo. Ma non ti credo, io oggi ti dico cosa ho mangiato, un arancio, basta, metà mattinata, un arancio perché avevo la bocca un po' asciutta, c'era caldo. Mi sono mangiato un arancio, tutto lì. Non mangio roba, panini, roba, non ne mangio. Ma perché magari è stata una cena abbondante il giorno prima, tu devi guardare nell'arco di 24 ore, non solo le ultime 10 ore. Sì, la cena abbondante, ma diciamo di sì, che ho mangiato bene ieri notte. Infatti il confronto lo fai sulle 24 ore, non nelle ultime 10 ore. Perché ti capita molte volte che non hai più voglia di mangiare il calcolatore, però il giorno prima cosa hai mangiato? Un buon intero. Ma diciamo che ho mangiato più verdure che altro. Ho mangiato insalata di rucola e io ho cessato a mangiare, capito? Perché non mi butti più. Prima non mi fregavo, bastava che mangiavo qualsiasi cosa e ingrassavo perché mangiavo regolato. invece adesso mangio per dire molto il verdure, non mangio il primo e per dire voglio anche il secondo, mangio anche il secondo, anche abbondante, non so perché non mangio il primo che c'ha carboidrati. Tu devi mangiare regolato, tutto, io sono così, diciamo, gli animati almeno si cerca di farlo. Sì, vabbè, poi sia l'età che sia, e quindi, vabbè, quando si entra di come te, quella la ragione. Ma che tu devi metterti il bastone, c'è dell'accompagnamento, l'acqua però. Mi hanno detto che sia anziano. Su 60 vado adesso. Ma non è uno che ti conosce molto bene. Una che ti conosce molto bene. Lucia. Hai detto che c'aveva una bella voce, che arrivava molto più forte di te. E che cosa vuoi fare? Mio marito è anziano. Lui ti ha detto. Non ho veramente in due qua. Sono la differenza numerica io. Che successo? Parla anche lui, non è buona sotto voce. No, no, però vedete piano, però. Però questo rimango male, sono rosso rosso. Ci hanno fatto della mela ieri. Allora, Emanuele, abbiamo fatto della mela a Roberto. Ma tu dici, perché cosa mi avete detto? Voi mi avete trattato? Che c'è capelli bianchi, che sto diventando anziano, che la voce si è abbassata per quello. State a sentirsi giovane dentro, non si dice. Tutti così dico, quando uno non sa cosa dire, dice, intanto sempre se fossi giovane dentro, poi se gli dici, e che brutto quello lì, poi dice, vabbè, ma sono bello dentro, non ha detto che la dico. Ma tu non devi trovare qualcosa di buono sempre, se no ti butti giù pure. Appunto la bambina è sempre ci vuole, ma se sì che si fa per scattare, allora... Ma già non sono vanitoso, non ti preoccupare, io già non mi sono mai vantato di essere bello. No, oh, beh, cosa c'è da qui? Cosa c'è? Non penso che piace a tua moglie, non deve piacere agli altri. Si basi burella che già davvero ma te, non è così. Non lo so se per tua moglie sia così. Non ce la faccio a settembre. pugnalo adesso. E poi settembre, malgrado si paghi di meno la modello, eccetera, eccetera, però mi sa di fine di stagione, di mortuio, anche quando si fa male a settembre non mi piace più. Oh, se fa settembre di quest'anno era micidiale, era veramente bello. Posso dire che settembre era più bello di agosto, l'estate scorso fanno. Io so, Robbe, ma non quando vedi la spiaggia deserta, aspetta una persona, non mi viene la monotonia, mi viene da pensare, capito? Io una volta sono andato da solo che pescavo, e sai, quando vedi questa immensità di mare davanti e tutto deserto attorno, ti viene la malinconia. Neanche così è brutto, dai. Poi c'è gente che se ne fa apposta, le scrive così, e gli dice almeno non ho rompimento di scatole, c'è tutta la teoria per me, mi posso fare i pomolacci miei. Come sta arrivando? C'è le batterie rosse e fisse qua. Non mi sta arrivando bene, Santiago 95 non l'ho vista. Male, sta arrivando male. Perché mi dite non provo a seccarlo, mi ha seccato questo slitter. Quindi più di 95 non vi dici non da. Quanto stiamo dicendo, Roberto? E tu quest'anno? No, non so, stiamo cercando di prendere quella casetta e l'ho presa a Platamuano, noi siamo di lì a Platamuano, non ci sono le gabbine, noi le chiamiamo le gabbine, ma corretta, hai visto, ce l'ho presa. Io non ci vuol dire che quello è il portatile. Stai trattando, Roberto? Sono le batterie scariche, stai trattando. Aspetta che attacco l'alimentatore, così sta contento, dai. Scariche, l'intensità della modulazione, capito? È tutto strappato, tutto malmesso. Ti capivo lo stesso, non è che non ti capissi, però è strappato, tutto lì. Ma capo, questo c'ha un paio d'ore d'autonomia con questa batteria, se lo metto alla massima potenza, il piccolo il portatile tira fuori 4 watt e ti dura un paio d'ore, se invece lo metto a 1 watt magari ti può fare 4-5 ore. Cappa già va bene, ma siccome le batterie erano a terra, stanno uscendo così, comunque non è successo niente. Allora, non è successo nulla. Io te l'ho solamente detto perché so che quando ti succede c'è subito l'alimentatore a portata di mano e rimedi, capito? Tutto lì. Riprendi doppio room. Ma ora sono ascolto. Ma buonanotte, io sono il mio figlio. A me. Sono. Dimmi. Gianni. Sì. Vedi, quando poco fa ho detto, tu non te ne sei accorto perché c'è un apparecchio super professionale, loro stanno a fare da drivi qui. Sì, ma non è quello, no. Ci sono modi e modi di dire le cose, capito? Se la prova a contare io non c'è ancora l'auricolare per le orecchie, che ci sento abbastanza bene. Io ho detto quella mia, per me ti sentivo tranquillamente. Poi se è peggiorato dopo, magari nel secondo passaggio non l'ho sentito, questo non è un problema. Comunque ci sento abbastanza bene. Non è successo niente, dai, si scherza, magari qualcuno in certi momenti può essere un po' più buriato, comunque non è successo niente. Bene, Flipper, mi ascolti adesso tu? Flipper! Nuova. Ma tu chiami Luca Flipper? Sì, basta, ti ascolto. A volte capisco, a volte non capisco quello che dici. Dubbo, io ti ascolto bene, per cui tu riesci a trasmettere meglio che a ricevere. Non lo so, non c'è questo fischio fuori. Tutto, guarda che c'è una fermata. Ok. Ancora. Capo, ma forse si è messo in moto la ventola di quell'apparato. E adesso? Sente ancora. Si incastra, non ci fa, è normale, no? A me è capitato in una casa, sono andato a fare a traslocare a casa di mia zia, e abita vicino a via Valdella, ci sono quei palazzi nuovi. Ho dato col sciorino, non riuscivamo a uscire più, perché siamo entrati, alla fine non riuscivamo, perché mi avevano caricato un armadio sopra, una, non era un armadio, la gente non mi ammetto cosa era, se era qualcosa, qualche tipo comune, una cosa del genere. Alla fine per uscire, sono venuto da fare e ne ho staccato un pezzo di piede. Cosa erano due, allora scaricavo tutto e poi ricarica la vita, non me la futtivo, da là ho detto cammina tu, e ci ho troncato un piede. E poi l'ho messo a posto, non c'è problema, a casa, ma io mi toccava smontarmi tutto, domani c'era una cosa veloce veloce, cata, poi alla fine un'ora facendo manovre, girando alla fine ha detto basta, io cammina, se si rompe pazienza. Ha agganciato, crack, troncato un piede. Ma dove li sono trovati? E più o meno di lì, abita mia zia di lì. La casa nuova e c'hanno tutto quel passaggio per scendere giù, non è poco di stretti stretti sono. Sono proprio l'amico mio lì, che quella discesa fa scendere, sembrava un minuto lunghissimo. Poi c'era una macchina parcheggiata, non c'era il padrone, non si poteva fare. Siamo usciti infatti contro mano, no? Era un macello per uscire. Si può uscire anche dall'altra parte, non lo so magari, ma si può uscire tutte e due le parti. Infatti, già lo sapevo che poteva uscire, però da una parte era chiusa, perché stavano facendo dei lavori, non mi ricordo, avevano bloccato la strada, dei muratori, cioè non so da cosa stavano facendo. Allora sono dovuto uscire dall'altra parte. Succede. Si incarano con loro gli passaggi di lavoro nel nostro magazzino con l'ultimo dove c'era un negozio prima c'era la discesa, la discesa e poi c'era praticamente risultato la rampa delle strade del palazzo, del palazzo che c'è sopra il nostro, una specie di galleria insomma. E una volta si è incastrato un cane, non riusciva a salire né a scendere. No, questo amico mio, il fiorino, ha appena comprato un nuovo nuovo, c'è cioè la piazzetta, l'avevano appena aperta, entrava giù sotto, stava camminando, sono entrato, c'era una trave più bassa delle altre, loro ci avevano fatto caso, boom, mi do e poi sei inciurato. Qualcosa qui c'è cosa abbiamo dovuto fare, abbiamo dovuto sbloccare tutte le gomme. E almeno avete avuto l'intelligenza, però se fosse ancora peggio. No, non faccio la forzata. Poi dopo che siamo riusciti a sbloccare le gomme abbiamo fatto passare, abbiamo passato, ci ha fatto salire, capito? Quando è arrivato col primo ha toccato soldato io. L'avete fatto? Una trave l'abbiamo messo, una trave per rialzare con le rotte di davanti, è rialzata, con una trave quasi appena passata. E poi si fa uscire. Ve l'ho costato. Infatti ho detto mai che riesci a scaricare la carne, ma... è stato forse un bel tempo, un bel tempo. Quello è proprio capitato sgonfio, così e tutto qua. E non ho mai che il rifornitore vicino, è andato a scavare le gonfiate. Se c'è un problema, è perché nella superstrada non le vedi mai quei cartelli segnaletici, quelli appesi a roba di 6 metri, eppure qualcuno lo viene piegato, chissà come stavano fanno i camion. Quelli di punti, quelli tra passassa, no, degli occhiola, passassa di Montorosa, quello lì hanno messo. Io ne avevo visto uno, ma sono alti i miei, sono più di 6 metri, 6 metri e 50, eppure qualcuno l'ha dovuto piegare. Sì, beh, sono un camion, ci sono due camion che hanno anche quei spazi di vento sopra la mia, se è presente. Ma molte volte trasportano quelli scavatori che hanno il braccio alto sul pianale che superano i 7 metri pure certe volte. Uno ne ha perso tutti i trattori, già qui c'era quel mio amico mio facendo la curva. Ho visto dove c'è la via d'Italia per entrare verso la strada di Alighiero per andare verso la centrale, dove c'è quella curva. Lui ha fatto la curva maletta, ma che si è girato il camion e ha perso tutti i trattori. Cioè, sta ricordando che era 4 mesi che stava aspettando il trattore. Aspetta, gliel'ho costata. Lui vicino a dove abito io, nella curva, adesso non più, ma prima quando ragazzino io c'era una curva, tutti scendevano da Clarigio che facevano quella curva di lì, prima di arrivare da me. Ma sai quanti camion di bibite, di mattoni, di cemento, si coricavano il carico e cadeva tutta intera. Tu dovevi vedere casse di birra, di latte, di un nuovo giorno ho visto una scena in questo qua, a questo manzano c'erano i forattini, quelle pedane dei forattini, non era ancora andato bene, si è spostata una corda, nessun caduto in terra, di me non ammazzano a quest'uomo. Ci sta parlando un giovane, da poco. Sono stato in biliare, questo qui, con la propria donna, ha fatto la lavoro da adesso, due anni. Ha un carico pieno, un carico pieno, si è coricato in casa. Di lato, meno male, perché se avevo preso una mano, era caricato di lato e l'ha fatto per scaricare tutti quanti delle loro, in tutta di una campagna. Perché se no, se andava dietro, un carico, non mi schiacciato qualche macchina. Già lo credo. È un casino, è un costume di quadro da stare attivi. Io avevo, come io, avanti dicevo, un campo davanti a me, un altro treno, tutto carico di macchine schiacciate e pressate. E con questa retina fino a fila tipo quello che si mette a biolire. È una cosa che è incosciente. Un paio di mesi fa invece questo testino, l'ingresso di Sassari da Via Buda, perché lì un camion, un furgone di un panificio, adesso momento dove il panificio era carico di pane, di cesso di pane, lì si è aperto dietro lo sportellone, ne è caduto tutto il pane in terra, e tu lo vedi questo qua, questo ragazzo bavaraccio, raccogliendo tutto il pane in mezzo strada, ma che non le cesse. Io penso che non abbia detto niente a chi se lo voleva mangiare. Poi vabbè, sono cose che succedono anche lavoro. Io una volta ho visto una scena, c'era questa signora che stava aspettando la traversare sul bordo del marciapiede. Questo qui ha parlato, si fa una curva, mi si è preso poco di dietro, per mettere di pena questa donna. Tanto è venuta in terra, vado a controllarla, io mi sono fermato con il furgone dietro, la controllo, e mi accorgo che c'aveva addosso un fuori del braccio. C'aveva una frattura scomposta ed esposta. Chiamato 118 dicendogli che cosa ci aveva e poi si è avvicinata una donna, dato che era anche epidemica questa donna, quindi ho telefonato dicendogli che era epidemica di nuovo e l'hanno fatto la flebo sul posto, l'hanno fatto due iniezioni sul flebo e poi l'hanno caricata la morale. Caspita, cose sono cose brutte. Invece l'altra volta a me qua vicino a questo io, dove c'era una volta c'era la Santa Aiuto, non so se l'hai conosciuta, in Via Granci, e lì c'era uno di quei camion che c'hanno la pedana, non so se di quei, vabbè, già li conosci, quelli per scaricare che c'hanno la pedana a sollevare. Sì, ce l'abbiamo anche noi, non so, li conosci. Sì, l'ho conosciuta la Santa Aiuto, come si può fare tra Via Granci e la Togliata, che pare. Ma lì c'è proprio l'altezza del semaforo, lì si mettevano a scaricare questo tipo col camion parcheggiato lì e dietro lì si mette una macchina dietro, proprio a fianco alla pedana, questo non si accorge, schiaccia la pedana e lei si è dovuta la macchina, e quello suonava e quello non si è accorto di niente, scendendo perché c'era il telecomando dall'altra parte, non vedeva niente, e ha schiacciato tutta la macchina. Sì, ma che quello intelligente, dove sarà 20 minuti dalle macchine operatrici, non lo so. Sì, ma questo si è fermato, se ne è sceso di colpo veloce come fanno questi senza segnalare niente, è andato subito, era in fretta, e lui era convinto che fosse in fila per aspettare il semaforo, perché c'è il semaforo lì per girare in gattogliati, lui si è messo dietro, questo senza segnalare niente, è sceso veloce, io mi sono tutta la scena, perché lo lì ha schiacciato di colpo, la macchina sotto e ha schiacciato tutto il muso. Carrozziere, ho lasciato il bigliettino alla visita, magari, ma non sai niente, quasi, che aspetta l'incendio, il vicino che va subito col bigliettino. Me l'hanno fatto a me a Porto Torres, te l'avevo detto. No. Torres un po' di anni fa c'erano ancora il ritmo nella via principale, nella via Sassari. Stavo camminando e è uscito questo da via delle Vigne, quella via dove c'è il distributore. Io le Lulvini via Ettore Sassari, con via Sassari, intendo Lulvini, la parte di via Sassari e la parte di via Sassari. Ma c'è un inserto di lì, cos'è? Non è via Sassari quella? Sì, quella sì, la parte qua poi via Ettore Sassari. Mi è uscito questo qua, la volta posso andare a guardare, io stavo camminando tranquillo, uno mi ha pigliato in pieno, uno di fuori, non era pratico. Dopo che è venuto il carattristi, eccetera, eccetera, si avvicina il carattristi e il carabiniere mi fa, venga, le devo dire qualcosa. Ma dice, venga, guarda, io ho un amico carrozziere, fa da nome mio, la tratta bene, ho fatto, guarda, mi dispiace, io lo faccio di lavoro questa roba, ci è rimasto troppo male. Allora lui non è finito il tutto, adesso dice, stavo dato la torta. La luce non trappa, siamo andati. Tra l'altro, sì, l'ho conosco anche bene perché è collega nelle riunioni con quello che. Dopo di quello viene sempre Luciano Trappasso, viene lo scorso, col caratteristico, con il bilancino, si è presente quelli con le cinghie. Sì, io conosco Luciano, conosco bene, tra l'altro modulava, lo sa. Tra l'altro? Modulava anche Luciano. Sì. settimana di giro vai lui, lo so. Ma lo so. Vabbè, mi prende la macchina lui già, e eravamo in 5 dentro la macchina mia, e la ritmo diesel la prende con il bilancino, la mettiamo sotto, la mette contro marcia, nel senso opposto alla marcia, sotto la macchina. Arriviamo a Sassari, all'altezza di cosa, noi eravamo dentro la macchina parlando, discutendo perché ce ne dovevamo tornare, arriviamo all'altezza del sottopassaggio di, sotto, di Santa Maria. Lui c'aveva il braccio sollevato, come arriviamo al sottopassaggio di Santa Maria si sbatte il bilancino sopra, le va innanzi la macchina. Meno male eravamo dentro al ritmo, tu vedi come si è fatta la macchina, noi dentro, però ce ne fosse caduto un palazzo addosso, tutto è schicciato la macchina, lui ci ha salvato che la ritmo era abbastanza dura come macchina, se ci trova in una panna ci schiaccia. Allora sbaglia anche lui qualche volta, perché una volta è stato capace di dirmi, ma guarda, mi conoscesse, se volevo che mi facesse un corso accelerato di scuola guida, perché io praticamente sono uscito dalla parcheggio, lui era in bicicletta, non l'ho visto perché col furgone da dietro non lo vedi, e si stava fermato da me, no, e mi ha detto, scusa, non ti ho visto, quando vuoi ti faccio un corso accelerato, ma fatemi una fanculo. Il terzo del giorno era meno male che andavamo dal ritmo, la macchina un po' dura di cappotta, di montanti, tu vedi, è caduto tutto il bilancino sopra la cappotta, ogni rumore, buuuu, in terra, poi si è spaventato lui perché pensava che fossimo fatti molto, molto male. Cioè, non so se è rimasto, a bordo della macchina con la caricata sul carro. Come noi dovevamo rientrare a Sassari, non avevamo altro modo, noi ci siamo rimasti dentro la macchina, lui ci ha caricato sopra il carattere e noi dentro la macchina. Se no ci toccava salire a piedi. E come è arrivato a Santa Maria, allora era più basso, non so se te lo ricordi, il sottopassaggio di Santa Maria, ha toccato il braccio del coso e è caduto in terra, sopra la testa nostra. Ah, bravo! Oh, via! Avanti, Mara! Io capisco tutto, però non capisco come un autista di un mezzo del genere consente di caricare una macchina sopra un carro gru con 5 persone a bordo, lo sai che è vietatissimo, e se lo trova qualche pattuglia gli ritira pure la patente. Già lo so, però gli abbiamo detto noi, noi eravamo a piedi, la colpa è la nostra. La colpa è la vostra perché voi gliel'avete chiesto, però lui non vi doveva trasportare, o seduto in gabbina con lui e gli altri si pigliavano il pullman, o quanto per loro non doveva caricare nessuno perché è vietatissimo portare persone dentro la macchina. Questa maglia è la maglia che mi fa la macchina. Prima. Allora, non è manco bravo. No, vabbè, non lo so. cercando di giudicare. Io lo conosco per le questioni di associazionismo, né? Perché lui era nella come si chiama, Confederazione dei Carrozzi. Comunque molta gente che ha fatto la macchina l'ha fatta di un altro colore, ha trovato la scusa che magari quella lì aveva i guai suoi e che magari col colore nuovo si doveva ancora scolorire, ma gli studi cazzate tutto qua, che non stava facendo in testa. Vabbè, le madrelingue ci sono da tutte le parti, io non dico che sia bravo, ma non dico neanche che sia cattivo, perché non lo conosco da quel punto di vista, però tutto di una persona che le fa il lavoro bene, te le vanta 10.000 volte, ti dice bravissimo, bravissimo, trovi uno che è sbagliato, magari una fesseria, quello te la parla male per tutta la vita. Io quando sbaglio cerco sempre di riprendere il lavoro e cercare di accontentarlo. Ad un giorno me ne è venuta una in officina, mamma mia. No, questo da poco, lo sai cosa è successo a questa qua? Questa si è sbattuta, gli hanno dato un colpettino dietro, un ragazzo, uno che conoscevo, e non ha fatto l'assicurazione e gli ha pagato la verniciatura del paraurti. Gli hanno verniciato il paraurti, contentissimo, ha detto la prossima volta mi capita qualcosa, non ci sono problemi, vengo da voi, sono soddisfattissimo, eccetera, eccetera. E lei viene l'altro giorno, qua tra l'altro Cagliaritana, ma di Lugano Ribocciulide. Mi viene a me e mi fa, guarda come si è fatto questo paraurti, tutto staccato. Ho fatto, certo che si è staccato, signora, si è sbattuta un palo lì, no? Sì, ma non si deve staccare la vernice. Ho detto, signora, lei ha sbattuto un palo, ha deformato il paraurti, che in pratica la vernice per forza che si spacca, è naturale. Sì, ma lei me lo doveva dire se la vernice si spacca. Ho detto, no, guarda che chiunque lo vernice quel paraurti, la vernice si spacca quando subisce una deformazione. Sì, ma questo là, sacco di ferro, ho fatto, guardi, faccia una cosa, lei lunedì mi porta la macchina e io glielo rifaccio, così è tranquilla, io ce la coscienza pulita, però tenga presente che lo sto facendo solo per questione commerciale, per politica commerciale, non perché c'ha ragione, proprio per evitare i problemi. È stata una cosa che mi sta facendo, devi vedere dopo che l'ho parlata, tutta un'altra persona, ah sì, mi scusi, da prima era tutta prevenuta, dice lei me lo doveva dire il paraurti se voleva nuovo, perché siccome questo paraurti era graffiato, secondo lui il paraurti lo doveva cambiare nuovo, ha detto guardi che nessuna assicurazione glielo paga nuovo, il paraurti se è graffiato, mi ripaga la verniciatura e basta, sì ma il paraurti quando è nuovo è diverso, un sacco di strude, ha detto guardi signora, proprio per evitare, io sono contento se lei ci ritorna da me, eccetera, eccetera, glielo rifaccio gratis, non si preoccupi, e glielo rifà. È capitato anche altre volte che paraurti sfoglia, però per altri motivi, gli ho spiegato, ho detto guardi, ne ho rifatto uno 15 giorni fa, ha sfogliato, dopo due anni ha sfogliato, questo ha usato le pompe a pressione, quelle, le lancia ad alta pressione, infatti ho detto la prossima volta non usate più, se no non te ne faccio più. Molte volte si sbattono le pietruzze davanti, le viste nel paraurti, dove un pochettino di buchettino si fa nella verniciatura, poi usi l'acqua a pressione e le salta tutto, ma quello è normale, e me l'ho rifatto. È come avere una valvola che entra nell'aria, posso dare l'acqua. E qui questa tipa, se io non avessi fatto il parlare del lavoro, ne avrebbero portato in giro per tutto il sacco, mamma mia, postazione, eccetera, eccetera, avrebbe detto chissà. Però bisogna sentire tutte e due le campagne, così il discorso di trapasso, io non lo conosco se è bravo o se è meno bravo, se hai, non lo so, però bisogna sentire tutte e due le campane. Una cosa ti dico, una volta è successo un particolare a me, sono andato alla discarica a buttare il tarpone e c'era un camion che stava scaricando, stando della bandiera, con l'affare aperto sopra, io ero già posizionato per scaricare, come scaricare, ma no, si scusi, ma forse dove c'è quel camion, una era lì, a fianchi, mi ha fatto andare sotto e mi ha spaccata tutta la capota di sopra, e ci voleva praticamente ha trapasso 7 milioni, io 1,5 milioni l'ho fatta fare, è ben fatta, perché c'ero 5 anni e non mi ha mai perso niente. Non lo so, già, io del discorso di prezzo non ne parlo mai, perché io parlo dal principio che nessuno regala niente. Io ti posso dire, a noi molta gente dice siamo molto cari, però io dico, vediamo il discorso qualità-prezzo, a parità di qualità dobbiamo fare il confronto, perché io ti faccio vedere dei lavori, gente che ha pagato la metà e dopo è ritornato e l'ho dovuto rifare io, e si è ricreduto. Non è che io sto dicendo che io sono bravo, no? Assolutamente è il contrario, dico. Però mettiamoci a confronto a parità di qualità, a parità di materiale, di tutto, perché io ti posso fare tanti di quei camuffi che tu neanche te ne accorgi e il lavoro tu lo vedi perfetto, ti inizio a riempire di succo, usare vernici scadenti, trasparenti scadenti, eccetera eccetera, e tu lo vedi bello finito il lavoro, però lo stesso lavoro si può fare raddrizzando, anziché mettere 2 cm di succo non gliene metto niente, gli do un fondo di qualità, trasparente di qualità eccetera eccetera, e ti faccio pagare il doppio. E tu dici, ma questi lavori sono uguali? Non sono uguali. Vabbè. Io mi so che un amico che ha detto che c'erano con le banche a farlo, c'erano con le concessionarie per prendere le macchine, le portavano da lui, dove c'erano i buchi, gli facevano le vendite di casa, e poi gli facevano la cattura sopra, la regina e via, e si ribassava così. Sì, vabbè, quello è un tipo di lavoro, io non ne ho mai fatto, non, con concessionario mai lavorato assolutamente, noi siamo dipendenti proprio da quei motivi lì, perché ti impongono certe cose, non mi devo mettere su piazza io per un lavoro, ma lì lo fanno lavoro a corpo, dice quanto mi prende per veleggiare questa macchina, 500 euro, può essere buona, vecchia, nuova, eccetera, eccetera, sempre 500 euro, per cui lì devi fare delle restrizioni tu, sei obbligato tu, però io non mi posso rovinare la reputazione per una cosa del genere, io ho visto macchine sottoporta riempite di cemento. Se capiti in officina un giorno ti faccio vedere una cosa, l'abbiamo conservata, che io non ne ho mai visto in tanti anni. Cioè, non ci pensi. Ci hanno fatto un in carrozzeria. Io non sto scherzando, un sottoporta di una macchina, come quella della macchina era, tutto marcio sotto, l'hanno riempito di cemento e poi l'hanno stuccato e verniciato. Ma, in bene. Io ho visto tante cose, ma il cemento no, ho visto una macchina intaraccata, cemento sì, quella sì, del mio vecchio principale, dice, esce questa macchina tutta graffiata, tutta bombuglione, tutta così, tutta quella, ha pigliato una macchina e stava pigliando la foto, per questo pagato il cemento. Diciamo così, che hanno la zoccolatura della strada, molti ce l'hanno fatta in trachite, molti ce l'hanno fatta in calcestruzzo, che c'è il burdino, e molti ce l'hanno invece che mettono la riga, no? E poi gli danno il cemento spruzzo. Beh, io ci sono fatto usare la ricordata spruzzo, una 500L. Della destra, anche se l'aveva fatto lo intorno, in guarda che travatta. Però presentava bene, era bellina, che era una cosa rustica. No, poi ho visto tanti che avere il buco, riempirlo di carta, di sale. Io invece ho visto tanti lavori fatti benino, forse l'avrei conosciuto pure a Cadia. Quando gli portavano le macchine a marche per non fare saldature e cose brutte, diciamo così, anche perché dove si può c'è la lamiera, gli fa mettere la ruggine e cose, no? Lui che cosa faceva? Invece tagliava il pezzo della lamiera, bene, tagliata bene, poi pigliava un altro pezzo di lamiera, sana, gli faceva i buchi col trappano e gli metteva i buchi quelli piccolini piccolini, poi gli dava un copertino di martello in modo che quasi sparissero là, e metteva un pochettino di stucco e poi stuccava tutto e usciva un lavoro pulito là, la ruggine non appiorava. Invece ho visto molti lavori fatti col cannello che saldavano il pezzettino della lamiera e dopo un paio d'anni, da dove c'erano le saldature, iniziava a uscire la ruggine. Bisogna farlo con criterio pure. Io ho visto una macchina, l'hanno portato da noi, tu mi stai parlando di rivetti, io ho visto una macchina che hanno cambiato un passaruota, l'hanno fissata anziché saldarli, i longheroni, il coso, il passaruota l'hanno fissata a rivetti. Tu mi vedi come ti sei fatto, ha preso un altro colpo dopo qualche tempo, si è staccato il passaruota. Quelle situazioni che uno dice la macchina è vecchia, non vale la pena di spenderci tanto, e allora quello che la fa più, che le pezze tirano alla mia, non ne metto un altro, l'attacca a rivetti. Poi c'è quello che invece gli mette tu cammina e tu fai il lavoro bello, pulito, però alle vibrazioni l'ho portato, la resina si spacca e dopo ne scende. Capa, ma sono due materiali, non sono collegabili uno con l'altro, la resina col metallo è un incollato, è un'incollatura, non è una fusione, per cui stacca, è come se ci stai incollando roba sopra a busti, un po' più forte, però alla prima dilatazione spacca tutto, perché non sono, non hanno legame uno con l'altro. E capa, già lo so, ma per quello che ti sto dicendo, che tu vedi molti lavori, che appena che la ricevi, è tutta quanta bella, bellina, tutto quanto quello che vuoi, però dopo qualche mese, specialmente se lo fai nel periodo caldo, che la lamiera dilata col calore, no? Poi al freddo naturalmente si restringe, e dopo una settimana attaccasi il pezzo e si vede la lucco. Ho visto anche di quelli lì io, non è che... Sì, io ero di tutti i colori, molto più di voi perché ci sono immerso sicuramente di questa cosa, però è un mestiere dove si può fare tantissimo, il carrozziere e anche il meccanico. Il meccanico un po' di meno, però il carrozziere è, secondo me è uno dei mestieri che si può fare, le furbizie si fanno più degli altri mestieri. Scappagappa, c'hai ragione, no, perché io ho visto di tutti i colori, no, io c'avevo questo qui, era un amico d'infanzia, diciamo così, abbiamo fatto anche la scuola assieme, che poi ha chiuso, adesso sta lavorando al petrochimico, a Profotores. Capa, riprendi tu Giale. Ma mi sono dormito. No, non sono addormentata, sto parlando con mia moglie, vabbè là. Mi sento che c'è un barcolino che voglio riposare. D'accordo, ci sentiamo stasera, una buona serata a tutti. Io faccio il corretti, mi faccio il riposino. Capa, buon corretti e buon tutto là, secondo Marcolino. Niente, tutto alle prossime, riprenderò me. Ciao, buon recupero anche a te, Gianni, buon lavoro per stasera. Sono tutto che faccio stasera per provare a avere tutto a posto la barca, magari ci faccio un salto se faccio la spesa in quelle zone, dai. Capa, io sono... Le 5 mezzo già ci sono qui e probabilmente qua c'è le 5 mezzo dove io ci vedo. No, se vado sul tardi, no, niente, come non detto, allora. Gianni, se ti ricordi quella cosa, me la porti stasera e niente, va, così la assaggiamo. Buon proseguo, buon tutto e ce la riascoltiamo. Ciao ciao, riprenderò me. Ciao, ciao, va bene, ti chiamo anche. A me mezzo chilo. Ma come su Lucca, ho già dato, ma è la barriera magica da Lauda a te. Ho già dato, riparo, ho già dato, entri. No, sono sempre qui all'ascolto, sono al computer. Devi ascoltarmi. No, non c'è il lavoro. Perché vuoi cambiare lavoro? Non c'è posto più. Scappagatta. Non sono militare che devo andare a pigliare pallone a casa. Non sono militare. No, se vuoi togliamoci di fuori. Come stai dicendo qua? E che ne sono milizie? A che ore sono? Non ho capito, ce ne sono, questa volta sto parlando poco. Sono le 3:17. Bambu, dai. Io mi aspetto, non so se quando ritorno siete ancora qui in radio. Devo andare a pigliare il pallone a casa, se no mi fa le voci. Cappa, vai, anche io adesso chiudo, che troppo esco. Cappa, tu te ne vai a passeggio con la famiglia, così vai a controllarti anche la barca. Cappa. Ok, là, ci sentiamo stasera allora dentro me. Ciao, Luca. Ciao Mario. Buon riposo. Avanti, no, sto Gianni anche. E anche Roberto. Oh Luca, come mai sei così basso, stavo dicendo? Luca, di radio sei molto basso, come mai? Io? Adesso va bene. Io adesso ho alzato un pochettino, un po' meglio, ma rispetto a prima eri molto meglio. Adesso, perché l'ho abbassato, dice, se la facciamo tornata. Zappa. Chi è rimasto? Luca Manicomio, c'è ancora? Ascolto basso. Non ti abbassato il volume, ma ci sono gli altri collegati. Buona tappa. Luca Maricondo, ci sei ancora? Beh, signore, è stato anche io. Luca, Fito, ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti, ciao ciao.